sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Metto subito le mani avanti, lo dico subito così poi state tutti tranquilli. Questa non vuole essere una trasmissione patetica, pietistica, non voglio andare a toccare le leve profonde della commozione per attirare consenso, non voglio fare come ha fatto il TG1 l'altro giorno, che ha fatto la tabellina dei successi d'ascolto per le trasmissioni dedicate al terremoto. Però non posso fare a meno che, come faccio spesso, poi mi piace mettermi in gioco. A volte si rischia, a volte si sbaglia, a volte in fondo funziona e si fa della radio che vale la pena di fare. Rifletto su qualcosa. Questa tragedia che ci sta toccando, ci sta lambendo, alcuni più, alcuni meno, è anche una questione geografica. È un termine che è paragonabile alla logistica. A seconda dove si è collocati sente più o meno questa tragedia. Molti possono anche essere nemmeno lambiti, sfiorati dalla campagna mediatica, è una delle tante cose che accadono. Altri, come noi che viviamo a Roma, ci sentiamo più vicini perché la terra continua a tremare, le notti continuano ad essere angosciate e cominciano già a parlare di lesioni in palazzi romani. E quindi si comincia a pensare che tutto ciò a cui davamo un valore e soprattutto davamo un senso di immortalità, o se non immortalità, di contiguità con la nostra avventura terrena. Noi tutti abbiamo pensato che casa nostra sarebbe stata sulla nostra testa finché noi avremmo avuto modo di vivere e di godercela, come pensavamo che il nostro lavoro ci avrebbe portato tranquillamente alla pensione, come pensavamo che tutte le persone care che abbiamo attorno avrebbero comunque maniera felicemente di sopravviverci. Questo non è così, non è nella logica dell'esistenza. E soprattutto vi parlo della mia esperienza personale. Stamattina ho degli scarponi da montagna, sono vestito da battaglia, perché finita questa trasmissione andrò in Abruzzo a vedere la mia casetta, che grazie a Dio mi hanno detto che è in piedi, però mi hanno detto aspettati di tutto. E immagino che i ricordi di anni, le stanze dove sono cresciuti i miei bambini, un figlio mi ha detto guarda se le mie casette di Lego stanno ancora in piedi, mi viene da ridere, non so se manco ci sarà più la sua cameretta. Beh, tutte queste cose qua, banalità, piccolezze nei confronti di chi oggi piange morti, e quindi mi rendo conto che non fa paragone, ma questa è un'esperienza personale. Riflettete un attimo sui piccoli oggetti quotidiani, sulle piccole piacevolezze della vita alle quali ormai abbiamo fatto conto che l'avremo sempre. Sto guardando queste foto sui giornali e mi sorprendono quelle dove mostrano le case. C'è la foto di una casa aperta come la quinta di un teatro, dove c'è una specchiera dallo stucco dorato, un po' pacchiana, un telefono finto antico, una consolina finta 800, cose che oggi fanno sorridere, una sorta di piccolo stendardo messo sopra un altro mobiletto a tortiglione, un lampadario pendente rimasto miracolosamente attaccato al soffitto. Piccole cose di cui poi possiamo ridere e sorridere del gusto e di chi l'ha scelta, che però rappresentavano comunque il conforto del quotidiano per le persone che ci stanno dentro. Un'altra foto, fra le macerie vedo un telefonino di l'ultima generazione, quelli carini, rosa, un piccolo calcio balilla da bambini, tutte cose che comunque avevano un senso, costellavano e riempivano la nostra giornata. Oggi per alcune persone queste cose non ci sono più. Non c'è più la casa, non ci sono più i parenti, non c'è più la sicurezza di avere un tetto sulla testa, ma anche queste piccole cose. Beh, un'amica, sapendo che oggi andavo giù in Abruzzo, mi ha detto per favore mi porti uno spazzolino da denti. E questo mi ha fatto riflettere. Io sono andato a comprare uno spazzolino da denti per una ragazza che faceva una vita come la mia, aveva tutto, non aveva l'impressione che nulla le mancasse. Oggi si trova timidamente a chiedermi uno spazzolino da denti. Beh, vi siete mai chiesti, avete mai riflettuto di come si potrebbe vivere senza niente di tutto quello che abbiamo? Quindi la domanda vi faccio oggi, una riflessione farò con alcuni amici, non ho una meta precisa e vado secondo la deriva che voi mi suggerirete chiamando all'800 24 00 24. Come si vive quando manca tutto? In studio con me ho Filippo Di Giacomo, che è il cappellano di Radio 24, non so se il termine è giusto. Beh, insomma, speriamo che non si offendano. Vabbè, non credo che tu abbia molta concorrenza comunque all'interno, perché sei l'unico prete ufficiale. Preso al volo, perché lui deve fare la sua trasmissione, e mi serve per riflettere. Primo perché ha un'esperienza di vita, secondo perché essendo di Sora lui conosce comunque per contiguità l'Abruzzo. Tu come prete sei abituato a fare un'infinità di prediche anche sotto Pasqua, soprattutto in tempo di Quaresima, e quindi dal pulpito, come tanti, dirai che in fondo ciò che conta non sono gli oggetti materiali, non sono le cose transiunte a cui noi poniamo una grande affezione. Ma al di là di esempi astratti, secondo te come si può far capire, approfittando di un'occasione del genere, approfittando il termine brutto, sull'onda emotiva di un'occasione del genere, onda emotiva che passerà, domani ci saranno i funerali di Stato, dopodomani le programmazioni televisive si normalizzeranno, fra una settimana dei terremotati ci si accorgerà soltanto quando ci sarà da fare qualche bel pezzo di colore, la vecchietta sotto la tenda, andando avanti, la pioggia, il maltempo, la neve, i terremotati sotto la neve, le baracche, la ricostruzione, saranno tappe molto diluite, non ci si ricorderà più di questo. Perché non possiamo noi invece tener conto di questo momento forte che coglie emotivamente, anche grazie ai nostri telegiornali, ai nostri giornali radio e via dicendo, per riflettere di come potrebbe essere la vita se non avessimo ciò che ci sembra indispensabile per vivere? Beh, in realtà io sono abruzzese e ho tre facce di tre ragazzi morti, così impresse a memoria. Una ragazza di San Giovanni Rotondo che ho conosciuto nel corso di un pellegrinaggio, una matricola, un ragazzo amatissimo del mio paese natale, in provincia di Chieti, che verrà seppellito questo pomeriggio, e quattro ragazzi di Sora dove svolgo la mia attività. E diciamo così, dovessi ragionare con le categorie di ciò che in questo momento mi vengono così direttamente alla bocca, dovrei avere la stessa faccia di una foto di un abruzzese che ho visto a Onna quando portava dei cadaveri sul prato e stava coi pugni chiusi con lo sguardo alzato verso il cielo. Credo che fosse lo stesso grido di Cristo sulla croce, magari espresso con espressioni diverse, irripetibili. Cioè, in realtà noi abbiamo tutti dentro la nostra vita degli snodi che sono degli snodi fondamentali, nelle quali noi possiamo continuamente aggiornare la lista delle cose che ci sono veramente necessarie e delle cose che sono totalmente, totalmente inutili. Io vorrei così far notare che all'Aquila questo terremoto, per tanti motivi, ha infierito su una generazione, come se fosse passata una falciatrice a tagliare i fiori, su una generazione di italiani del tutto simili a quelli che stanno facendo finta di vivere dentro una nota casa di una nota trasmissione televisiva. È sempre vita. Poi ci sono di quelli che studiano e muoiono e di quelli che non studiano e recitano la vita. Per quanto io abbia osservato per anni la televisione, i suoi fenomeni, il trascinamento emotivo rispetto ai modelli che propone, non posso fare a meno di dirti, è chiara la tua lettura. Per la prima volta ci si rende conto che una generazione che sembrava immortale, invulnerabile, esistente soltanto per essere criticata, perché si espone in maniera così evidente attraverso... Sì, ma anche la figura di quel giovanilismo spietato al quale da 10-20 anni ci stiamo tutti inginocchiando, perché poi in realtà forse il grande messaggio di Giovanni Paolo II gli ultimi anni della sua vita era proprio questa icona che contrastava contro questo giovanilismo che ci fa chiamare ancora persone di 35, 36, 37, 38 anni dei ragazzi, che porta dei quasi quarantenni a giocare con delle ipotesi vitali, che porta tutti a, diciamo, mascherarsi e magari anche ricorrendo alla chirurgia. E tu dici, non a caso, la casa dello studente è stato il luogo simbolico in cui ci sono state più vittime, perlomeno vittime atipiche anche se il termine forse non so se è passabile, rispetto alla sequela di vittime di un terremoto. Oggi tutti i giornali parlano delle lunghe sequenze di bare di bambini, degli anziani, delle persone sepolte, una cantante emergente e fra le vittime ci sono anche questi ragazzi. Solo una battuta, Giulia, buongiorno. Sì, Gianluca, buongiorno, buongiorno a tutti. Anch'io riflettevo ieri guardando le immagini in televisione, vedendo questa gente veramente a uno stato di disperazione. Però se mi permette, Giulia, vorrei portare la riflessione su di noi, se no ci accodiamo anche noi. Infatti riflettevo come noi ormai siamo abituati a vivere di superfluo, perché a volte ci sentiamo poveri, parlando anche della crisi economica globale adesso, perché magari non possiamo permetterci il superfluo, perché di necessario ne abbiamo in eccesso, quasi, voglio dire. Magari non possiamo comprare una cosa in più, ma cos'è che ci manca? Quando abbiamo la casa, abbiamo gli affetti, abbiamo i nostri figli vivi, insomma dobbiamo un po' accontentarci, spesso ci si lamenta troppo. Grazie Giulia. Riprendiamo il filo della nostra riflessione. Durante la pausa stavo parlando con l'amico che è qui in studio e riflettevamo sul fatto che non è necessario avere per forza un'apertura della propria esistenza alla trascendenza, avere una fede cristiana. Questo momento in cui mi sembra un bene comune, una collettiva e sapiente elaborazione di una indubbia crisi, una riflessione sul superfluo secondo me mi sembra necessaria. Filippo Di Giacomo. Ma poi però, diciamo così, non si può dimenticare che nella tradizione culturale delle popolazioni dell'Aquila sono cadute anche alcune delle memorie storiche che raccontano il radicamento, per esempio, nell'aquilano del movimento pauperistico più importante mai esistito nella storia del cristianesimo, che è quello francescano. Perché noi diciamo San Francesco e pensiamo subito ad Assisi, però in realtà il francescanesimo è sopravvissuto perché mentre i frati di Assisi, i primi discepoli, discutevano se accettare o non accettare la regola, venivano anche scomunicati per i ruoli politici che assumevano, all'Aquila, con Bernardino da Siena prima e nel Reatino, che era comunque terra dell'Aquila, il francescanesimo diventava popolare. Per cui vedere la chiesa di San Bernardino, anche la chiesa di Collemaggio, che a sua volta era il segno di un altro movimento pauperistico, di un monaco, Celestino di Morone, che fuggiva dalle grandi abbazie, dai grandi feudi territoriali, per ritornare ad essere povero tra i poveri, in un momento in cui stiamo così riflettendo sulla socializzazione dei beni, perché se n'è accorto Dario Fo su un'intervista a Liberazione, quando l'arcivescovo di Milano ha aperto il primo fondo famiglia lavoro, versandoci intanto i suoi risparmi, dicendo in realtà incominciare oggi a dire chi ha dia, chi non ha prenda, forse è una delle poche cose di sinistra che stiano circolando in questo paese. Alberto Salza, buongiorno. Buongiorno. Alberto Salza, scusa se ho tenuto al telefono fino adesso, antropologo, autore del volume Niente, come si vive quando manca tutto, l'antropologia della povertà estrema, appena uscito da Sperling e Kupfer. Noi abbiamo parlato di questo libro con te qualche giorno fa, quando non immaginavamo che ci sarebbe stata una così immediata proiezione della nostra esperienza quotidiana di quello che tu hai conosciuto lontano da noi. Ecco, innanzitutto come antropologo, e alla luce delle difficoltà dell'uomo occidentale a elaborare questo tipo di concetto, quali sono le doti essenziali che secondo te ci mancano per vivere quando manca nulla, come negli slum in Africa che tu descrivi nel tuo libro? Certo, innanzitutto io cercherei di rassicurare che è tipico delle persone che vivono in zone di disastro pensare che un terremoto sia una punizione divina. Non è assolutamente così, perché se fosse così Dio odierebbe i miseri, perché il 90% delle vittime di catastrofi naturali sono in zone di estrema povertà. Quindi questo è un'idea per continuare ad andare avanti, altrimenti ci si chiude in se stessi. Pensate che, non so, in Bangladesh le persone sono use segnare i propri mobili di casa con dei numeri civici, perché quando arriva l'inondazione se li porta a spasso per tutta la città di Dhaka e la gente poi va a recuperarsi uno dopo l'altro. È chiaro che chi ha nulla perde di meno, c'è una vecchia canzone che dice che la libertà è per niente da perdere, in compenso chi ha nulla vive in condizioni di deprivazione anche spirituale, anche mentale, molto forti, al punto che la carenza di cibo può passare a generazioni successive con danni genetici, e quindi voi capite che il disastro immediato che colpisce piccole popolazioni in qualche modo non va a incidere come invece può incidere la miseria di 2 miliardi di persone che sanno che i loro nipoti avranno lo stesso tipo di comportamento, di tara, di danni fisici e spirituali. Quindi c'è quasi una percezione di fatalità ambientale, anche se non è assolutamente giusto. E invece alle nostre latitudini noi ci stiamo sforzando, e guarda qui il paradosso, di riuscire a dare una sorta di significato di ammaestramento etico rispetto a quello che succede. Ci rendiamoci conto che quei mucchi di telefonini, di oggetti futili, di mobili che magari non servivano, di puri orpelli al nostro desiderio di avere comunque della roba che ci desse status, ci desse conforto, ci desse esistenza, oggi potrebbe non esserci più, e quindi pensiamo come possiamo vivere. Ma possiamo fare un passo indietro? Sì, sicuramente si può, con notevole difficoltà. Io devo dire che ho capito un pochettino il discorso, si parlava di San Francesco. Secondo me San Francesco, che rinuncia alla sua ricchezza, fa una scelta. I monaci etiopi che ho incontrato nei buchi di Lalibela in realtà rinunciano al niente, non hanno già nulla, ed è una rinuncia completamente diversa, proprio nell'interno della mente. Richiede una forza di condivisione di quel minimo che si ha, che noi non abbiamo più. Io dico sempre che in fondo è facile moltiplicare i pani e i pesci, è molto più difficile dividerli. Ecco, questa parola della condivisione, a questo punto della redistribuzione degli oggetti, se proprio vogliamo parlare, della redistribuzione delle risorse, è l'unica possibilità futura che io veda, altrimenti nelle zone di disastro si ha un inizio in cui tutti siamo più socievoli. Questo l'ho visto capitare moltissime volte, io ho fatto il volontario da quando ero ragazzino e sono stato poi in zone di guerra, in zone di terremoti, in zone di inondazioni, tutti più socievoli, poi si è solidali. E poi pian pianino si diventa invece più nervosi, l'emotività aumenta, questo capita soprattutto con la fame, appaiono irritabilità e rabbia, si formano delle congreghe che si oppongono l'uno all'altro, e poi alla fin fine tra i saccheggi iniziano i rituali religiosi e il misticismo fuori di senso. Alberto, ti rendi conto? Tu hai descritto la dinamica della casa del Grande Fratello. All'inizio si baciano tutti, si vogliono tutti bene, sembrano tutti amici. Lentamente, mentre va avanti il processo di selezione per essere nominati, per uscire da quella zona privilegiata, cominciano delle battaglie sempre meno nascoste, e poi comincia il raggruppamento, poi cominciano i leader. Esattamente la stessa dinamica. Quindi in questo contemporaneo e artificiale incubatoio dell'umanità si ripercorrono gli stessi passi che compie l'umanità di fronte a i grandi enigmi per poter sopravvivere. Ma la casa del Grande Fratello è una zona di disastro, culturale, etico, comportamentale, cioè è messa apposta, è una magnifica struttura di sperimentazione del comportamento umano. Sentiamo Francesco. Francesco, buongiorno. Buongiorno, sono in linea, sì? Sì, certo, la sto ascoltando. Allora, volevo uscire, se possibile, un poco fuori da quello che avevo preannunciato. Dica quello che si sente di dire. Allora, riguardo al passaggio prima dei francescani... Lei da dove parla innanzitutto? Parlo da Caserta, però sì. Voglio parlare del vescovo, della buonanima del vescovo di Teano, Francesco Tommasiello, il quale praticamente, andando in Brasile per testimoniare la sua vicinanza ai disastri di quel popolo, fu accusato da qualcuno, dal pubblico, di parlare solo e di non fare niente per il popolo. da quel momento si tolse la croce, il pastorale e l'anello, che erano tutti quanti d'oro, li mise là sopra e disse: questi sono miei, iniziate a prendere questi e fateci quello che dovete fare. Dice: per il resto cercherò di fare. Da quel momento il Vescovato di Teano non ha più riavuto quegli oggetti in forma di oro, ma se li è fatti fare in materiale povero di legno. E questo per, diciamo, non aggravare ulteriormente, cioè per non dire: io prendo i soldi di qua, li porto di là, semplicemente. Vabbè, questi sono quei gesti simbolici, sempre meglio comunque dell'indifferenza, ma io volevo un pochino più calare nella sua esperienza. Sì, per l'appunto, tornando invece all'argomento principale. Nei 5 anni della superiore, delle scuole superiori, sono stato trasferito da mia nonna, perché praticamente a casa tutte e due lavoravano, quindi non potevano starmi vicino. La casa di mia nonna è costituita da un pezzo di un castello, diciamo, però che di castello e di nobile non ha praticamente niente. Tanto per cominciare, dai servizi igienici, che sono totalmente inesistenti, costituiti solamente dal water, per esempio. L'acqua, vabbè, ci arriva, meno male, la corrente sì, però televisione niente, acqua calda per riscaldarla sul fornello, il gas con la bombola del gas. Guardi che le posso dire una cosa, io classe 54, anch'io sono cresciuto in queste condizioni, erano normali, almeno per la mia generazione, non era una famiglia povera la mia, ma l'acqua si scaldava sulla stufa. Sì. E quello che voglio dire, dico, il tornare poi nella situazione, tra virgolette, di civiltà, ovviamente mi dava maggior gioia che non, diciamo, stare in quella situazione, quindi mi faceva vivere ancora meglio quello là che là mi mancava. Ma da quello che ho potuto sentire prima e che ho riflettuto mentre vi ascoltavo al telefono, è che quando queste mancanze avvengono per scelta personale, si vivono molto diversamente che invece, come nel caso del terremoto, in cui di colpo si viene. Sì, questo esattamente questo è il punto, Francesco. Scuolo riflettere. Alberto Salza, c'è un capitolo sul tuo libro che parli di istruzioni per la miseria. Una cosa è una scelta volontaria, ascetica, di improvvisa fulminazione sulla futilità dei beni materiali, quindi fa anche star bene emotivamente, si diventa anche dei soggetti accennati alla pubblica ammirazione. È una cosa è la necessità di dover fare i conti con delle contingenze che non possiamo prevedere. Ci sono delle istruzioni in questo senso? Beh, istruzioni non ce ne sono mai per nessuno, perché ogni situazione è a sé. Devo dire che la grande alternanza è tra la scelta puro e assoluto. Ci sono i mira giapponesi che praticamente si autoaffumicano con delle erbe sacre, si autoseppelliscono fino a che diventano delle mummie. E l'altro invece, la persona che viene travolta da un'improvvisa manifestazione di disastro, e a quel punto tutto gli sparisce di dosso, crolla un intero sistema su di lui, mentre l'altro è una costruzione progressiva e di annullamento di sé. Qui invece si ha un annullamento di sé istantaneo e di conseguenza è molto difficile prevedere. Io credo che l'unico suggerimento sia quello di respirarsi addosso, dico io, no? In situazioni di sopravvivenza, sentirsi il proprio odore, il proprio se stesso, cioè di ritrovare una sorta di animalità. A quel punto probabilmente si riesce a recuperare progressivamente anche il rapporto con le cose. Questo è abbastanza, cioè molto chiaro, Alberto. Devo lasciare la linea alle informazioni per il traffico. Respirarsi addosso, sentire l'animalità. Infatti, oltre allo spazzolino da dente, la mia amica ha detto: se puoi, portami anche un deodorante. 800 24 00 24. Stiamo cercando di stabilire una via possibile, percorribile volontariamente, naturalmente, anche se prima o poi per molti diventerà una via obbligata, per trarre spunti di riflessione personale nel proprio quotidiano a quello che sta accadendo a una fetta di nostri conterranei. Improvvisamente potrebbe mancarci tutto. ci sono dei mancamenti graduali, si comincia ad accorgersi, era cronaca sui giornali prima che si parlasse soltanto di terremoto, bisogna cominciare ad essere oculati nelle proprie spese, gli italiani tagliano sulle loro vacanze, poi si vede che in fondo non avevano tagliato nemmeno molto, crisi nei negozi di abbigliamento, i saldi anticipati, ancora abbiamo da scremare parecchio prima di arrivare alla parte essenziale di ciò che ci manca veramente. Poi esiste per qualcuno un'improvvisa fatalità per cui manca improvvisamente tutto, dallo spazzolino a denti, come abbiamo detto, al cambio di abiti quotidiano, a persone che sono come voi che ascoltate in questo momento, che uscite e vi prendete un cappuccino in bar. Io questa mattina mi sono portato dietro pane, affettati, cose per sopravvivere un giorno in un luogo dove a 80 km da dove mi trovo io probabilmente non troverò negozi. Filippo Di Giacomo è in studio con me per fare questa riflessione. Sì, abbiamo messo molta carne sul fuoco, però come ci ha detto l'amico Alberto Salza, in questi contesti è più facile moltiplicare i pane e i pesci, quello che è difficile è distribuirli in modo tale che non solo poi tutti vengano sfamati, ma che addirittura, come dice il Vangelo, ci siano delle ceste per raccogliere gli avanzi. Ora, sostanzialmente, negli esempi che abbiamo fatto durante questa discussione, abbiamo omesso di dire che questa distribuzione avviene ricorrendo a delle strutture che sono delle strutture che in alcune civiltà si chiamano tribù, si chiamano clan o famiglie in senso diverso. Ora, all'interno di quello che noi stiamo vivendo, il segno che ci viene da questo terribile momento è certamente anche il segno di tutto quello che una cultura ha prodotto all'interno delle nostre strutture profonde, per cui gli abruzzesi reagiranno da abruzzesi, punto interrogativo, che cosa ci stanno dicendo in realtà i morti? Abbiamo sentito di una nonna che è stata ritrovata abbracciata al nipotino, abbiamo sentito di una bambina di 16 anni che diceva a papà prima che il muro crollasse, tanto papà dobbiamo tutti morire, abbiamo sentito di due fidanzati ritrovati stretti mentre tentavano di fuggire, abbiamo sentito di una mamma che ha salvato la figlia facendole scudo con il corpo. Cioè, in realtà il più grande torto che potremmo fare a questo impoverimento del nostro senso di sicurezza è non capire tutta la ricchezza dei linguaggi e dei segni che questo ci viene dato, e forse da questa profondità. Io non sono come Ungaretti che diceva che i morti vanno lasciati in pace, penso più a Dino Campana che diceva che invece i morti vanno sentiti, perché il più grande peccato di questa società grassa è di aver scomunicato la morte. Carla, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. Dicevo proprio alle ultime parole del tuo amico, io è proprio così. Non dobbiamo dimenticarci, il ricordo è quello che ci lega alla vita, è quello che poi dà senso, secondo me, a quello che ci aspetta, a quello che è il destino che tutti quanti abbiamo. E io penso una cosa che credo sia giusto dire, anche io ascolto la televisione e sento parlare di costruzioni, di mattonelle, di pietrame, di case dal punto di vista di quello che esse sono come abitazioni. Beh, in realtà io penso che ci dobbiamo ricordare che la casa prima di tutto è un nido e che come tale raccoglie il filo di tutti i nostri ricordi, quegli oggetti di cui parlavi all'inizio, quelli che si vedono. Tu l'hai lasciati a casa tua? Sì. Ed è anche la seconda volta che questo mi accade in pochi mesi, ed è una cosa straziante dover ricordare che queste cose mi sono lontane. Non lo so, quello che noi perdiamo poi alla fine lo ricostruiamo, vedi che abbiamo bisogno poi di ricostruire intorno a noi degli oggetti che ci richiamano a dei ricordi, perché quei ricordi ci legano alle persone. Te Carla, alla prima scossa, quella terribile, dove stavi? A letto? Dormivi? Stavo a letto, sì, all'Aquila, nel mio letto. E niente, mi sono rannicchiata su me stessa e gridavo, ho avuto una reazione che non mi aspettavo. E non riesco neanche a ripensare a quel momento perché è stato talmente terrificante. E niente, ero impotente. E nello stesso tempo tutte le cose, i miei oggetti cadevano intorno a me, le foto che si spezzavano, i vetri che si spezzavano, e poi piano piano ho raccolto tutte queste cose, le ho messe da parte in attesa di poterle rimettere in ordine. E, grazie Carla, ti saluto perché siamo proprio vicini alla chiusura, volevo sentire però da Londra Luisa Pryor. Luisa, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Luisa Pryor, la conosco, un'amica, anche una vicina di casa, pensate un po', della mia casa in Abruzzo, è direttrice artistica di un festival importante, Pietre che cantano, è anche docente al Conservatorio di L'Aquila. Era una delle occasioni più interessanti di profonda cultura, perché portava musica di altissimo livello, musica classica, dentro i luoghi più belli di quella zona lì. Ti sei chiesta, Luisa, cosa rimanga dei posti dove andavi a fare i tuoi concerti? Sì, io anzi cerco notizie continuamente e qualche notizia confortante c'è. C'è qualcuno di questi bellissimi luoghi che ha resistito, come ha resistito nei secoli a tante altre sollecitazioni anche sismiche, perché anche nel 1700 ci fu un grande terremoto all'Aquila. Qualcosa rimane e abbiamo ricevuto in questi giorni testimonianze di solidarietà dai nostri artisti che negli anni sono venuti e sono anche tornati, che desiderano tornare, desiderano dare la loro testimonianza a questa gente e dalla quale hanno tratto moltissimo, perché la dimensione così piccola del nostro festival, insomma, noi abbiamo un pubblico in genere di 150-200 persone, massimo 250, crea proprio una specie di circolo estremamente intimo e vitale. Sei domandato una cosa, scusami sì. Luisa, il tuo festival si chiama Pietre che cantano, che è il titolo di un famoso libro di un famoso musicologo, Mario Schneider, che ha una teoria fantastica che in realtà le grandi cattedrali europee siano delle sinfonie legate a un significato simbolico delle loro allegorie. Ecco, sì. Pensa adesso che in realtà i luoghi dove suonava Pietre che cantano sono pietre, e quanto avrà più senso far cantare nuovamente queste pietre? Guarda, quest'anno lo sentiamo proprio come un dovere morale di esserci ancora, di tornare e di dare questi momenti di, diciamo, elaborazione anche collettiva, di, in questo caso purtroppo del lutto, ma anche per dare nuova fiducia e qualche spunto gioioso, vitale, insomma, nel ritrovarci ancora. Beh, infatti sembra che il miglior auguro che possiamo fare nel nostro piccolo è che le pietre tornino a cantare. Filippo, proprio in conclusione, è vero, c'è un significato profondo fra musica e Abruzzo? Beh, basti pensare che il Venerdì Santo, in tutte le processioni del Cristo morto, si canta un miserere di un musicista abruzzese del 1700 che D'Annunzio definiva un oceano di lacrime. Poi l'Abruzzo è sempre stata la capitale editoria musicale del Regno di Napoli ed ha una tradizione, diciamo così, musicale tanto importante che fa dell'Aquila uno dei capoluoghi di provincia con il maggior numero di consumo pro capite di musica classica, e questo da sempre. Grazie Filippo Di Giacomo, grazie ai nostri ospiti, l'appuntamento è domani, non certo per Melog, perché ci saranno i funerali di Stato per la prossima settimana. Intanto buona Pasqua, con l'augurio che le pietre continuino a cantare. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.